intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Ottimizzazione, parola magica nel mondo industriale ma anche nella vita d'ogni giorno. Per chiunque, devo andare in cartoleria, bene, ne approfitto per portare giù il cane e prendere un pacchetto che ho in macchina. Scegliamo l'ora migliore per fare tutte e tre le cose. Le strategie di amministrazione dei dati stanno aprendo praterie di ottimizzazione anche con nuovi servizi. Cristina Conti lavora come Analytics Solution Manager alla SAS, trova soluzioni a partire dall'analisi dei dati. Cristina Conti, benvenuta. Grazie, salve a tutti. Allora, breve spiegazione di SAS. Cosa fa questo gruppo? Allora, SAS è un'azienda americana, una delle più grandi aziende di Advanced Analytics al mondo. Advanced Analytics vuol dire che avete la capacità di analizzare dati provenienti da tante sorgenti, è questo? Ce lo spieghi? Sì, noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti, delle aziende con cui collaboriamo, una serie di strumenti finalizzati proprio ad analizzare grosse mole di dati, mettendo poi a disposizione quindi degli algoritmi efficaci di Analytics, e trarre poi delle decisioni che per forza di cose possono essere anche decisioni in real time, analizzarle subito. Sì. Ovviamente se le analizzo fra 3 anni non hanno più senso. Rapidamente analizziamo 2 casi specifici. So che ci può raccontare qualcosa di particolarmente stimolante nel settore banche. Le banche stanno subendo dei cambiamenti epocali. Adesso ci sono delle tipologie di dati che prima per le banche era impensabile ottenere. Mm-hmm. Le faccio un esempio. Quando i propri clienti acquistano in un negozio e fanno transazioni con le carte di credito, sì, la banca è in grado di raccogliere in tempo reale i dati delle transazioni e utilizzarli per comprendere maggiormente i profili d'acquisto dei propri clienti. È in grado quindi di capire chi spende di più, chi spende di meno, che tipo di profilo di spesa hanno, ma anche capire degli elementi essenziali del punto di vista, del momento della vita dei propri clienti. Quindi possono anche proprio utilizzare le transazioni che vengono fatte tutti i giorni da tutti noi in qualsiasi negozio online per profilare, sì, al meglio i clienti. Vuol dire che praticamente come comportamento d'acquisto si riesce a capire anche dove spende e che tipo, magari non nel super dettaglio, ma che tipo di merci sta acquistando. Lei dice questa cosa può diventare utile anche per il cliente. Gli arrivano delle proposte, per esempio? Esattamente, il cliente invece che essere banalmente bombardato dalla banca per sottoscrivere dei finanziamenti o sottoscrivere dei prodotti finanziari ai quali non è minimamente interessato perché magari sta facendo delle grosse spese per rinnovare la casa, la banca è in grado di saperlo e anziché andare a proporre dei finanziamenti a caso è in grado di proporre esattamente al suo cliente l'offerta per gestire quegli acquisti in casa nel modo in cui il cliente ha bisogno, nel momento in cui il cliente ne ha bisogno. Quindi questo anche per il cliente è un grandissimo beneficio. Dovrebbe essere, per dirla anche brutalmente, una riduzione di spamming non indifferente, perché certo ci arrivano tonnellate di offerte per acquisti di case e mutui quando magari ne abbiamo appena acquistata una l'anno prima. Cioè, infatti, si riesce però con le vostre analisi a dare dati attendibili anche su questo? Si riescono a dare assolutamente dati attendibili anche su questo. Chiaramente si vanno a trattare anche argomenti in alcuni casi molto specifici, perché si parla comunque anche di, in diversi casi, problemi legati alla privacy che non approfondirei in questa sede. Però ovviamente si riescono ad ottenere, anche senza andare sul cliente di dettaglio, degli aggregati sui clienti della banca che contengono delle informazioni molto chiare, molto specifiche, assolutamente rilevanti, che poi la banca può utilizzare, ma che a sua volta può utilizzare con i clienti business interni. Quindi queste aziende che magari, nel caso della casa che abbiamo fatto prima, aziende che magari vendono elettrodomestici, prodotti per la casa e così via. Insomma, ho pagato con la carta di credito un ingresso in una piscina e mi arriva dopo 20 minuti una pubblicità di costumi da bagno, mentre invece che ne so, non mi arriva una di scarponi da montagna, che però vorrebbe dire che è la banca che passa questa informazione dei propri clienti industriali. Sì, chiaramente in questo caso la banca potrebbe passare delle informazioni a livello aggregato o dei dati legati alla profilazione di un certo gruppo di clienti, in alcuni casi anche basati ad esempio sulla geolocalizzazione dei clienti, perché non dimentichiamoci che noi comunque siamo sempre tutti connessi. Credo che vi sia assolutamente chiaro come una attività di questo genere prima o poi dovrà rientrare dentro una regolamentazione dell'utilizzo dei dati, diciamo della privacy del cliente, per come questa viene un po' infranta nel momento in cui diventa un dato utile dal punto di vista commerciale. Adesso siamo ancora in alto mare come queste cose, ma ne parlavo con un collega al volo e parlando appunto di questi servizi specifici che arrivano dalle banche e lui diceva, beh, insomma, potrebbe esserci anche una negoziazione. E tu prendi questi miei dati e però mi abbassi i costi del conto o dei servizi bancari. Assolutamente. Bisogna dare qualcosa in cambio, insomma. Certo, bisogna assolutamente dare qualcosa in cambio. E sicuramente, diciamo, l'ambito della privacy, della gestione normativa di questi dati si sta muovendo. È chiaro che dal punto di vista cliente, e io qui mi metto nel ruolo di un cliente oltre che di un fornitore di questo tipo di servizi alle nostre aziende, è anche quello di capire che per noi possono essere tutti vantaggi clienti. Certo, perché comunque da un'altra parte ci arriva un servizio che in altro modo non potrebbe arrivarci. In altro modo non potrebbe arrivarci, perché nessuno potrà mai sapere che tipo di persona io sono se non è in grado di conoscere i dati che io produco, e io ogni giorno produco una quantità di dati industriale. Certo, insomma bisognerà avere un bilanciamento naturalmente. Corretto, assolutamente, questo è la necessario base. Qual è il massimo dell'ottimizzazione? Prevedere il futuro in generale è difficilissimo, ma in alcuni casi oggi si può. I guasti, per esempio. A Giuseppe Donagemma, presidente di Avanseus, una società che si occupa di analizzare tutto il traffico che gira in una grande rete, pensate pure a una delle reti telefoniche con le quali avete un abbonamento per telefonate e collegamenti internet. A Donagemma ho chiesto di descrivere inizialmente cosa gira e girerà in una grande rete. Oltre che connettere i telefoni, le reti sono sempre più complesse, vanno a connettere anche tutti questi piccoli sensori che vengono chiamati delle Internet of Things, per cui mentre nel passato si parlava di magari migliaia di nodi connessi, nel futuro si parlerà di milioni di nodi connessi. La gestione di queste reti cosa vuol dire dal vostro punto di vista, cioè delle strutture della società come la vostra che sono chiamate a trovare dei sistemi di manutenzione e di governo? Vuol dire che riuscite a ricevere dati da tutti i nodi? Esatto, le reti oggigiorno sono in grado di ricevere informazioni sullo stato del nodo, sul problema che ha il nodo e diciamo su eventuali attività che devono essere fatte per poter ovviare al problema. Quello che fa la nostra società è raccogliere tutte queste informazioni passate, digerirle, elaborarle e prevedere che cosa succederà nel futuro con un certo livello di precisione. E qui ci fermiamo perché l'abbiamo detta grossa, ma in effetti si può fare. Intanto le dico, ma qua parliamo di miliardi di dati, ogni quanto, come li contate voi? All'ora, al secondo, al minuto, però sono numeri di questo genere. Sì, diciamo che il nostro motore di Big Data riesce a processare circa un terabyte di dati ogni due ore. Quindi siamo sui miliardi. Esatto, esatto. Dati molto complessi, la maggior parte di questi chiaramente nella fase di learning, quindi di apprendimento, sono stati magari immagazzinati in un database dell'operatore, vengono macinati molto velocemente e poi si è in grado di cominciare a prevedere quelle che sono le attività future. C'è un punto particolare che mi pare vada sottolineato. Voi questi dati, ogni due ore, no, arrivano questi flussi impressionanti, però siete interessati a quello che avviene momento per momento, però li tenete anche, c'è uno storico, come si dice, no? Cioè conservate questi dati che si sono prodotti in un certo tempo. Diciamo che lo storico dei dati, proprio dei dati crudi, viene fatto dall'operatore, perché sono dati anche sensibili, quindi l'operatore li mantiene nei propri database. Certo. Quello che noi facciamo è estrarre le informazioni necessarie alla nostra attività e tenere nel nostro sistema queste informazioni. Stiamo parlando di conservare i dati su come si sta comportando la rete, no? E perché il vostro obiettivo è vedere dove vengono fuori i problemi. Allora voi tenete uno storico dei vari tipi di problemi. Esatto, e soprattutto non abbiamo nulla a che fare con il traffico telefonico. Con il traffico, o certo. Il traffico dati. È una linea di segnalazione che segnala i problemi in rete, quindi è una cosa completamente separata. E qui viene fuori quello che lei diceva prima, cioè voi riuscite a dire, insomma, a coloro che detengono la rete, guarda che c'è una probabilità di che succeda qualcosa in un certo punto, e questo, esatto, sembra, questo è prevedere effettivamente il futuro. E l'attendibilità di questo vostro giudizio deve essere molto alta. Esatto, deve essere molto alta, perché altrimenti non veniamo presi seriamente, per cui siamo riusciti a dimostrare che in determinate situazioni raggiungiamo una precisione molto elevata, anche più del 90%, su un certo spettro di problematiche, quindi viene chiamata coverage, quindi copertura questa, quindi una copertura per esempio del 40% sul totale degli errori che possono esserci o dei problemi che possono esserci, noi raggiungiamo più del 90% di precisione, che è già un ottimo risultato, perché questo significa poter prevedere più del 30% dei problemi, delle malfunzioni che succederanno nella rete. Previsione cosa vuol dire? Che gli dite fra 5 giorni lì su quella serie di nodi potrebbe esserci un problema, oppure è un avviso occhio che fra qualche minuto? No, no, no. Allora diamo una previsione sulla settimana o sulle due settimane seguenti e diamo l'unità che andrà ad avere problema, quindi non identifichiamo puramente un sito dicendo il sito di Milano 3 avrà un problema. Noi diremo l'unità XY del sito Milano 3 avrà un problema quel giorno con questa probabilità. C'era un certo sapore da inchiesta una volta da giallo, quando si doveva scoprire dove si trovava un errore, un guasto. Niente, sapremo tutto prima che si rompa qualcosa. E l'intelligenza artificiale, bellezza. Comunque un po' di cautela la manterrei. Buona intelligenza a tutti e a tutte. E per scrivere intelligenza AA con due A artificiale @radio24.it.